Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Qualcuno ricorderà come lo scorso lunedì ci fossimo tutti insieme meravigliati perché dopo 9 giornate di campionato le panchine di Serie A erano tutte ancora al posto loro. La lacuna l'ha colmata stamane Preziosi, presidente del Genoa, che ha provveduto in mattinata per l'appunto all'esonero di Gasperini, una voce che si è diffusa a Genova in mattinata con un'indiscrezione secondo cui Gasperini non era più l'allenatore del Genoa ed era in arrivo Davide Ballardini. Non c'è ancora conferma sul nome del sostituto da parte della società, anche se attesa ormai di minuto in minuto. C'è la conferma invece che è arrivata non dalla società ma dallo stesso Gasperini, che ha detto: non me lo aspettavo, preferisco non dichiarare nulla almeno per oggi, aspetto l'ufficializzazione, ma naturalmente c'è grande amarezza. Il giudice sportivo nel frattempo ha già deliberato sulle partite di ieri perché con il turno infrasettimanale in programma dopo domani sera ovviamente le società devono sapersi regolare. C'è la squalifica attesa per Pellegrino, l'espulso del Cesena ieri nella partita di Torino, e poi ci sono altri 4 giocatori fermati per una giornata per somma di ammonizione, che sono Cassetti della Roma, Gattuso del Milan, Potenza del Catania e Zapata dell'Udinese. 25.000 euro di multa sia alla Lazio che alla Roma per motivazioni diverse e una inibizione sino al 15 novembre prossimo, cioè per una settimana in realtà, tutto il 15 novembre, al presidente del Cesena Campedelli per avere durante l'intervallo in spogliatoio rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose. Poi ovviamente ci saranno i vostri commenti, i vostri interventi, le vostre domande consuete del lunedì. Ci sono molte curiosità statistiche. Franco Piantanida ha cominciato ovviamente per ragioni di attualità da Gasperini, che intanto doveva essere il Ferguson italiano. Ricorderete che lo chiamavano a Genova, era stato ribattezzato Gasperson, era in carica dal luglio 2006, quindi ha guidato il Genoa per 138 partite, aveva riportato il Genoa in Serie A nel 2007 e nel 2008-2009 ha centrato la qualificazione in Europa League arrivando quarto a pari merito con la Fiorentina, ma eliminato dalla Champions League per scontri diretti sfavorevoli. Io partirei proprio dalla voce di Gasperini dopo la sconfitta di ieri sera a Palermo. Preoccupante nel senso della classifica, perché è sicuramente una classifica che non aveva molti punti, però la squadra lotta, combatte, in difficoltà di organico, ha fatto le partite, magari un po' di lucidità in più, riuscivamo anche ad ottenere dei risultati vicini, un momento che non riusciamo a fare il risultato, ma sul piano della prestazione, dell'impegno, della affidabilità della squadra non ci sono dubbi. Appena riusciremo a recuperare qualche giocatore, alzare un po' la nostra qualità di gioco e fare qualche gol in più, indubbiamente potremmo tornare a fare dei punti. Invece i punti li farà qualcun altro, questi infortunati li recupererà qualcun altro. Mai credere che i presidenti possano finalmente fare un salto di qualità, scrive Giancarlo. E Alex da Udine rincara: esonerato Gasperini, ma sarà colpa sua se Preziosi gli ha comprato un paracaro davanti come Toni e uno dietro come Calazze. Sono due osservazioni indubbiamente anche queste, fermo restando che al di là di questi, che comunque secondo me il loro rendimento poi bene o male ce l'hanno, io ho l'impressione che la società Genoa, non credo proprio Gasperini si fosse illusa quest'estate di aver comprato un sacco di giocatori, cioè di aver comprato dei nuovi Cavani, dei nuovi Pastore, per capirsi. Invece di Cavani e di Pastore nel Genoa, almeno per il momento, causa anche infortuni, se ne vedono davvero pochi, o punti, come dicono in Toscana. Il match clou di ieri è stato certamente il derby dell'Olimpico, ma non solo, perché la vittoria esterna del Milan con almeno 5-6 gol regalati all'avversario, perché il fatto che la Juventus abbia saputo rimontare fronteggiando un'emergenza assoluta, il fatto che anche l'Inter abbia rimontato di fronte a un'emergenza assoluta ancora più grave, ma abbia rimontato solo parzialmente, sono tutti fatti che insomma vanno messi nel conto di una giornata che è stata più significativa di quanto, al di là dei risultati, di quanto si potesse immaginare alla vigilia. Basterebbe la moria di giocatori nell'Inter per dire che questo è stato un turno che può lasciare tracce profonde sul prosieguo del campionato, e basterebbe per questo il disastro di quello sventurato di Samuel, che sarà operato, leggo da un'agenzia di stamane, domani al Policlinico di Pavia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del collaterale esterno del ginocchio destro, che significa che nella migliore delle ipotesi Samuel lo si rivedrà il prossimo anno. A proposito della trasferta di Lecce, in forte dubbio Maicon, e ci sono perplessità anche su Snyder, che aveva avuto un mancamento nell'intervallo della partita con il Brescia. Dal fronte dell'altra grande vittima di molti infortuni, cioè dal fronte juventino, in vista della trasferta di Brescia, invece si legge che Chiellini, che sembrava destinato al riposo mercoledì a Brescia, ha invece disputato l'intero allenamento di stamane ed è pienamente recuperato. Non ci sarà invece Melo, che ieri è uscito per precauzione. Sul suo conto De Neri era ottimista e invece i controlli di stamane hanno suggerito di preservarlo, sempre che sia in grado di recuperare, per la sfida di sabato sera all'Olimpico di Torino contro la Roma. La vittoria della Roma nel derby di ieri, dicevo, molto chiacchierata, altrettanto meritata, almeno a parer mio, indipendentemente dagli episodi. Il commento del miglior uomo in campo, e cioè di Vucinic. Comunque da un po' di tempo che stiamo facendo bene, l'importante è che continuiamo su questa strada e spero che questa vittoria ci darà una spinta in più, perché è una vittoria in derby. No, uomo derby no, perché c'è Marco Del Vecchio, però la cosa più importante è che abbiamo vinto. Noi dobbiamo essere bravi a non pensare a quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso è vero, abbiamo fatto molto bene come nessuno si aspettava, però è importante che quest'anno guardiamo futuro, non quello che è successo l'anno scorso. È evidente che sulla sponda razziale benissimo non l'hanno presa, perché la partita è stata certamente condizionata da alcuni episodi che definire sfavorevoli è il minimo. Sentiamo Brocchi a questo proposito. Non è possibile, dai, è 2 anni che gli episodi nei derby vanno a nostro sfavore, 2 anni che li perdiamo e non va bene perché non possiamo perdere delle partite così. Guarda qua come fai a non fischiare un livello del genere, a me dispiace. Non possiamo sempre essere bravi e buoni, sbagliamo noi giocatori, sbagliano anche gli arbitri, oggi è stata una giornata noi, mi dispiace. Sicuramente sono stati degli episodi che sono andati a favore loro e non a favore nostro. Li possiamo guardare tutti, qua non è a libera interpretazione, qua sono immagini ben chiare. Ho detto delle cose a Ranieri e non è giusto, perché l'ho sempre stimato come persona, come allenatore. Ho sbagliato io e non dovevo dire queste cose, quindi chiedo scusa a Ranieri e mi dispiace sinceramente per l'episodio e basta. L'unico giovane decente a Genova è Mattia Destro, scrive un ascoltatore. Non ci va molto lontano, e forse anche qualcosa più che decente questo giovane attaccante dell'Inter, di cui si parla bene da anni, nel senso che sin dalla più, non dico tenera età, ma insomma sono tutta la trafila del settore giovanile destro ha mostrato grandi qualità. Ogni volta che entra mostra parecchio di buono, e poi evidentemente si tratta di avere il coraggio di rischiarlo o meno. In questo momento comunque farebbe certamente comodo all'Inter, perché con tutto il rispetto per Milito ho l'impressione che Destro sia insomma, che perlomeno potrebbe rappresentare il futuro ed essere un partner forse più duttile per lo straordinario momento di Eto'o. Primo intervallo, strade. Quello che l'Inter sta pagando, scrive Marco, è il conto che la fortuna gli presenta dopo la stagione passata. Ho pensato esattamente la stessa cosa sua, caro Marco, la sera di sabato, quando ha tempo praticamente scaduto, ma insomma all'ultimo istante di partita, Milito si è avventato su quel pallone in area che lo scorso anno avrebbe cacciato, o forse più che cacciato toccato in porta con grande disinvoltura, invece l'ha voluto sparare e anziché centrare la porta ha centrato un ignoto spettatore molti ma molti metri più su. Nella stagione scorsa quel pallone entrava di sicuro, l'altra sera non è entrato. Questa è un po' una sintesi, è la sintesi di un momento, ma poi le spiegazioni vere sono ovviamente tante e cominciano dagli infortuni. Davide ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Dica. Io personalmente ieri ho assistito al derby, chiaramente porto la Lazio e mai mi permetterei di portare la Roma, per carità. E niente, dopo Roma Brescia tantissime polemiche, arbitraggi, torti, persecuzioni, deportazioni contro la Roma. E ieri, carissimo opinionista, ieri c'è stato un calcio di rigore alla Lazio non dato secondo me. Cioè, non riesco a capire come non si possano dare quei rigori. A parte questo qua, sinceramente, però è stato un calcio che ha determinato il vantaggio della Roma. Certo, dopo ormai le lamentele sono finite, vero? Senti, la Roma in questi anni si è sempre abituato a, diciamo, a gettare sempre fango sul campionato, perché non è la prima volta che la Roma si comporta in questo modo. Quindi ecco la domanda che le propongo, è un campionato falsato, si è visto anche dove Brescia-Inter, un calcio di rigore inesistente, Davide, dato al Brescia, cioè, mi dica lei. Davide, se parliamo di campionato falsato, io negli ultimi tempi, diciamo, che non sono proprio recentissimi, ma non sono nemmeno così vecchi, visto che lei ha parlato lo scorso anno, se parliamo di campionato falsato, io ricordo Lazio-Inter dello scorso anno e credo che quella sia l'unica vera partita che ha falsato un campionato, ma falsato con la F maiuscola, e che avrebbe in un calcio serio, in un pianeta calcistico diverso, avrebbe avuto qualche leggera conseguenza in più. Il resto sono cose che vanno e vengono, sono errori. La Roma a Brescia aveva perso, sono passate 8 giornate. Io mi rifiuto di credere che il sistema abbia pensato di risarcire la Roma a 8 giornate data. Beh, se no non staremo qua a parlare di pallone e credo che potremo impiegare diversamente il nostro tempo libero. Grazie. Dario, provincia di Bergamo, buongiorno. Dottor Garanzini, grazie mille. Una domanda, il Milan ieri, secondo lei è leziosità quella di giocatori da arrivare davanti alla porta e sbagliare, o perché non ne azzeccano, nel senso che ci è andata bene che abbiamo vinto, però a parte il rigore che non stiamo qua a parlare, c'era per il Bari, mi sembra che hanno giocato un po' sul 2-0, tipo ormai abbiamo già vinto, siamo i migliori e alla fine quasi quasi la perdiamo. Perdiamo no, ma la pareggiamo sì, infatti non c'è mancato moltissimo, credo che sia un campanello d'allarme questo per il Milan. Il Milan ieri ha trovato un assetto tattico inedito, direi, per la stagione, un po' meno lustrini, no? nel paro di schieramento di partenza, molta più concretezza di atteggiamento, ma di schieramento in partenza. Mediani, cursori, gente che a metà campo magari non fa il numero, però combatte, recupera palloni, eccetera, eccetera. E questo è l'inizio, secondo me, di un progetto diverso, sempre che poi non ci siano resistenze interne. Questo è abbastanza sottinteso. In compenso c'è stata un eccesso di leziosità avanzata, assolutamente sbalorditivo, perché soprattutto Robinho, ma non solo Robinho, comunque hanno un po' tanto gigioneggiato davanti alla porta avversaria, e il Milan ha rischiato. Quella che poteva essere una vittoria di goleada è diventata una vittoria, se non di stretta misura, quasi, e questo è un segnale che evidentemente la squadra coglierà e su cui Allegri si soffermerà, almeno immagino. Abbiamo parlato del... Sentiamo proprio Allegri su il suo commento su questa vittoria barese. No, assolutamente nessuna frusta. Credo che sia stata una settimana intensa, perché avevamo perso con la Juventus, credo in modo molto immeritato. Avevamo recuperato, quasi vinto una partita con Real Madrid. Era importante ritornare alla vittoria. I ragazzi hanno fatto veramente una buona partita. Mi dispiace per i 2 gol che abbiamo preso, però abbiamo creato molto, c'è stata molta disponibilità da parte di tutti, ed è importante soprattutto perché chi va in campo riesce sempre a fare il meglio e mettersi a disposizione per i compagni. Questa credo che sia una cosa molto importante per un gruppo che deve vincere. Scrive Guido da Varese: troppe seconde scelte per poterla chiamare Inter. Aspettiamo il ritorno dell'80% dei titolari per vedere cosa succede. Sì, Guido, però bisogna vedere quando arriva questo momento dell'80%, perché nel frattempo, anziché tornare, se ne vanno altri. La moria delle ultime giornate è stata impressionante. Sono 2 partite consecutive di campionato in cui prima in una si stirano Julio César e Cambiasso, in quella successiva si stira Maicon e poi si rompe Samuel. Ora Samuel è evidentemente un fatto accidentale e drammatico viste le conseguenze. Non altrettanto si può dire le altre. Quello di Maicon è stato il 17° infortunio muscolare per l'Inter da inizio stagione. Le risparmio l'elenco totale, ma si fidi, è il 17° infortunio muscolare, e stiamo parlando quasi per tutti del bicipite femorale o del quadricipite, poi gravità diversa, ovviamente, fortunatamente, ma più o meno profondo, però stiamo parlando di qualcosa che non può non far scattare un allarme rosso, ma soprattutto introduce una domanda che all'Inter si stanno facendo prima ancora che nei vari rami della tifoseria, e cioè di cosa succede, di chi è la colpa, come si può rimediare e soprattutto siamo sicuri che recuperiamo gli infortunati, oppure dobbiamo aspettarci che altri abbiano di questi problemi. Roberto Taranto, buongiorno. Buongiorno. Dica Roberto. Mi ha preceduto quello sull'Inter, io le faccio una domanda un po' più banale. Non è sempre stupida la regola delle due munizioni che porta espulsione e poi addirittura squalifica? Molto spesso sono dei falli così veniali, una sua idea. Non ho capito sto granché. C'è un regolamento, io non lo so, ogni tanto qua dobbiamo, cioè se non riformiamo il regolamento almeno una volta alla settimana non ci sentiamo benissimo. Comunque il regolamento dice che se c'è un intervento di particolare gravità, l'arbitro caccia un cartellino di colore rosso e non se ne parla più. Se c'è un intervento di particolare scorrettezza ma non di grande gravità, l'arbitro caccia un cartellino giallo. E intervento può essere anche verbale, nel senso che può anche essere una protesta troppo accesa, può essere. Se a questo primo avvertimento ne subentra un secondo, evidentemente si arriva all'espulsione. Cioè, questa è la legge, può piacere o non piacere, io la trovo abbastanza giusta, perché nel caso del giallo è un avvertimento, ma è un avvertimento che ti deve rendere responsabile. Faccio un esempio di cui parleremo dopo l'intervallo. Se al 60° minuto circa Balotelli a Manchester riceve un cartellino giallo per una scorrettezza, Mancini, conoscendo il soggetto, si scatena a far scaldare il suo sostituto perché conosce appunto abbastanza Balotelli, ma non fa tempo perché dopo 3 minuti Balotelli ne fa un'altra e si fa cacciare. Questo è il concetto di avvertimento, che non per tutti funziona, evidentemente. Augusto ha chiamato da Forlì, buongiorno. Buongiorno Garanzini, 2 domande veloci. La prima, prendiamo il caso dell'Inter che ha dato Destro in prestito al Genova. Sì. Visto che è in prestito, io non mi so dare una risposta, lo può riprendere quando vuole, tipo a gennaio, oppure deve arrivare alla fine dell'anno? E la seconda domanda, ma non si può trovare un rimedio a tutti questi che stanno stesi per terra per fermare il gioco? Non ci potrebbe essere una soluzione tipo che l'arbitro, tu ti sei fermato, stai fuori 5 minuti? La riforma. Ecco l'altra riforma, perché eravamo in pensiero, Augusto, no? Dato che erano già passati 2 minuti da una precedente proposta di riforma, meno male che è scattata un'altra. No, senta, a parte gli scherzi, Destro non so. Io credo che possa tornare, anche perché mi pare che siano... che sia ormai di dominio abbastanza pubblico che l'Inter, che è proprietario di Ranocchia, cercherà di riportare Ranocchia a casa, cioè all'Inter, al posto di Samuel, a gennaio. Non è da escludere che provi a riportare anche Destro, ovviamente nell'ambito di un accordo con il Genoa che comprenderà o quattrini o più probabilmente giocatori tra quelli in forza o tra quelli sparsi in giro per l'Italia e non solo. Secondo intervallo, le borse. Si diceva che anche l'Inghilterra ha ufficialmente scoperto Balotelli, 2 gol decisivi nel 2-0 del City, vittorioso ieri sulla squadra di Matteo, e poi prima un cartellino giallo e poi quello rosso diretto, tra l'altro. Il Daily Telegraph ha titolato Lampi di bello, brutto e cattivo. Il Daily Star ci è andato leggermente più greve, scrivendo 2 pezzi di stupidità assoluta. Se cominciano così con Balotelli, io penso che cominceranno a mancargli abbastanza presto aggettivi e pure i sostantivi. Ne chiedo conferma a Nicola Ruggero. Buongiorno Nicola. Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori. Ma direi che gli inglesi o comunque i britannici potevano prendere ispirazione da Robert Louis Stevenson, l'autore dello strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde. Qui siamo in presenza del dottor Mario e del signor Balotelli, che fa delle cose meravigliose, tipo la doppietta nel giro di 6 minuti che risolve la partita del primo tempo, e nel giro di altrettanti minuti nel secondo tempo provvede a farsi cacciare. Prima un giallo E poi attenzione, un rosso diretto, l'attenzione è dovuta al fatto che in Inghilterra il rosso diretto viene comunque punito con 3 turni di squalifica automatici, e quindi insomma per Balotelli ne riparleremo più o meno all'inizio di dicembre, se anche, sì, questa anche squalifica verrà confermata. Certo, anche per Prandelli, perché mi pare che Prandelli fosse, ho letto da qualche parte che Prandelli era presente alla partita e ha esultato ai gol, soprattutto al secondo gol di Balotelli, molto bello, ha esultato forse quanto e più di Mancini. Il problema è che adesso anche lui aspetta altre 3 settimane. Certo che, vabbè, adesso io non vorrei aprire un dibattito sul CT, ma certo che puntare su Cassano e Balotelli, comunque Prandelli che sembra uno così, così posato, così tranquillo eccetera, non è che l'azzardo non gli vada a genio. E mi sembra che nel giro di 10 giorni ne abbia ampiamente pagato le conseguenze. Cassano fuori rosa la Sampdoria e Balotelli che ha fatto la prima della sua lunga serie in Inghilterra, lunga serie, spero una corta serie, spero che questo, che sicuramente un grande talento, riesca prima o poi a mettere la testa a posto. Però certo è davvero singolare uno che sulla 2-0 a proprio favore si faccia ammonire, l'allenatore Mancini fiuta il pericolo e fa alzare dalla panchina Adam Johnson, e prima che Adam Johnson abbia vestito la tuta Balotelli ha già provveduto, cioè non ha fatto a tempo proprio. Mancini ha fiutato il pericolo. Però, tra l'altro poi Mancini dopo la partita ha detto che a suo parere l'espulsione era ingiusta, che l'arbitro è stato troppo frettoloso e che il City farà appello contro la squalifica di Mancini. Io, se conosco la Football Association, prevedo già che la squalifica non avrà alcuna possibilità di rientrare, ci saranno i 3 turni di squalifica, ma Mancini con quel comportamento a mio parere si contraddice, perché se dice che è stata assurda l'espulsione, è anche vero che lui stesso era stato il primo a capire che insomma sotto la cenere il fuoco covale. Come ha visto il primo giallo, ha ordinato al panchinaro di scaldarsi, no? Esatto. E quindi evidentemente, esatto, anche questa era smentita e credo che la disciplinare potrebbe tenerne conto. Senti, visto che ci hai raccontato e descritto le due prodezze da Hyde, raccontaci le due da Jekyll, che almeno insomma, così per la completezza dell'informazione, ma anche perché poi Balotelli non è soltanto negatività, è anche talento. No, è anche talento, ed è proprio questo che a mio parere fa arrabbiare ulteriormente, perché è un giocatore che potrebbe far parlare di sé unicamente per i suoi numeri. Ieri giocava la sua seconda partita da titolare con il Manchester City e appunto l'ha risolta nel giro di 6 minuti, fra l'altro sempre su assist di Silva, il giocatore spagnolo arrivato dal Valencia, e l'ha risolta soprattutto nel caso del secondo gol con un meraviglioso tocco, liberandosi di forte di un avversario e in diagonale battendo il portiere avversario Carson. Quindi è un giocatore che c'è poco da fare, di numeri ne ha e ne ha in quantità industriale. Teniamo anche presente che è un ragazzo di 20 anni che si trova in un campionato comunque straniero, quindi con tutte le difficoltà del caso, con forse quello che è il miglior campionato al mondo, quindi sicuramente con un tasso di difficoltà notevole. Peccato che poi di fronte a queste cose Balotelli sappia offrire anche l'altra faccia della medaglia. Certo, e concludendo, peccato anche che un ragazzo che dopo 2 mesi di infortunio non ha potuto farsi apprezzare dai suoi nuovi tifosi eccetera, è protagonista in una partita, segna una doppietta, 3 giorni più tardi c'è il derby con lo United, cioè l'appuntamento più atteso dei suoi tifosi del City, e questo si fa cacciare come un coscritto. È incredibile proprio. È incredibile anche alla luce del momento del City, che insomma non era certo brillante. Lo stesso Mancini aveva visto la sua panchina a rischio, almeno secondo i perfidi tabloid inglesi. In effetti sicuramente gli investimenti degli emiri che sono arrivati dal Dubai non hanno ancora trovato riscontro in campo. Balotelli era quello che poteva invertire la tendenza. A proposito, ho ricordato io la sua doppietta, la seconda da titolare in campionato. Ricordo anche che all'esordio in assoluto col City Balotelli fu decisivo per vincere in campo esterno in Europa League con il Salisburgo, quindi sicuramente il suo impatto è stato notevole. Ecco che però provvede subito a levarsi di scena in occasione della partita con lo United, con il City che fra l'altro aveva la fortuna di affrontare un Manchester United sì secondo in classifica ma con mezza squadra a pezzi, quindi insomma un City al completo avrebbe dovuto veramente ribaltare la sua stagione in senso positivo. Certo, non è detto che non ci riesca, appunto visto lo United di sabato, cioè, vincere in maniera veramente casuale, non dico rocambolesca, ma assolutamente casuale, la sua partita in casa, tra l'altro certamente non contro un avversario di prima grandezza. Però è anche vero che appunto chiamarsi fuori così, qualche milanista comincerà a dire che non voleva perdersi il derby di domenica, no? Visto che si gioca Inter Milan. Ma veramente contro i turni di squalifica dite che è a posto, perché sì, sarà sicuramente libero sì, anche sì, per domenica. Bisogna vedere se il City lo libera, però gli dà il permesso di muoversi, perché fossi io il presidente del City o l'allenatore, è doppio allenamento tutti i giorni, domeniche incluse, così magari prima o poi lo guarisci. Grazie Nicola. Grazie a voi e grazie agli ascoltatori. Chiudiamo questo collegamento con Nicola Ruggero, ringraziandolo ancora per averci illustrato e raccontato in dettaglio che cosa ha combinato di buono, ma soprattutto di non buono, ieri Balotelli. Luciano da Biella osserva, a proposito di mettere la testa a posto, stiamo ancora aspettando che la metta Gascogne, la testa a posto, e purtroppo Luciano, oltre che spiritoso, è anche documentato in materia. E sentiamo Adolfo da Campobasso, buongiorno. Signor Garantini, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, le premette, io non sono tifoso come lei, penso, però sono malato di calcio, mi piace vedere le gesta di questi signori la domenica. Vorrei ricordare una cosa, c'era un signore che non più tardi qualche mese fa, a maggio, un certo Milito, con molto tatto ed eleganza, mi sembra che non appena sollevata la Coppa dei Campioni in diretta televisiva, si presentò a bussar cassa, no? Ricorda anche lei questo particolare? Sì, io non so se bussò letteralmente a Quattrini, se fu lui, il manager, bisogna sempre vedere. È quello che ha dato ad intendere a tutti, però insomma credo che fosse quello, no? Vorrei vedere se la stessa cosa succedesse, la stessa signorilità l'avesse oggi Moratti nei suoi confronti, e dire per un quarto di campionato lei dove è stato, voglio dire, insomma, è latitante, no? Quindi ti decurto parte dello stipendio. Mi piacerebbe che fosse, cioè voglio dire, che questi signori riflettessero un attimo su certi comportamenti. La ringrazio e l'ascolto del radio. Sarebbe una società ideale, non soltanto nel calcio. Io credo poco alle società ideali e alle utopie, e penso che sia meglio fare i conti con la realtà, tenendo conto, appunto, come lei fa, avendo memoria delle, no, di certi comportamenti, quando poi ce ne potrebbero essere altri da parte di terze persone. Marco, chiamato dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo dire, guardi, ho visto una Sampdoria per niente concentrata, non riesce a sbloccare il risultato, ieri poteva segnare, non ce l'ha fatta. Spero che si concluda presto questa vicenda qua a Cassano, perché cioè, è deleterio per la Sampdoria, questo e basta, non serve a niente. Ma mi sembra che più conclusa di così, Cassano. Marco. Come? Più conclusa di così, dico, mi sembra che... Ma nel senso che Cassano serve alla Sampdoria, perché altrimenti senza Cassano. L'ha visti ieri come erano in campo? No, sinceramente non sì, un'occhiata, diciamo, non però lei dice spero che si concluda in fretta questa vicenda è conclusa, e Cassano non fa più parte e non farà più parte della Sampdoria, poi semmai è riaperta la vicenda, ma dato che Garrone non ha alcuna intenzione giustamente di riaprirla, faranno qualcos'altro a gennaio, ma non credo Cassano. Gli Appazzini e la squadra andrà allo sbando e ricominceremo come al solito. Non so. Ce ne faremo una ragione, abbia pazienza, vedremo, tutto sommato li faccio una ragione, anche se indubbiamente è un peccato, però sarà un peccato, l'importante è che non passi un messaggio sbagliato, e cioè se per caso, dovendo fare a meno di Cassano, la Sampdoria non riuscirà a centrare gli obiettivi che si era proposta, la colpa non sarà di Garrone, sarà di Cassano. Ecco, questo magari è il caso di cominciare a fare un ripasso, perché sono già passati 10 o 12 giorni, no, in Italia, dato che questo è il paese poi del revisionismo storico, no, anche sui tempi lunghi, e però c'è un'evoluzione continua, e quindi magari insomma fino ai 10-12 giorni riusciamo ancora a ricordarci più o meno le cose come sono andate. L'ultimo intervallo, strade. Leggo su una notizia ANSA appena battuta che era impossibile già pochi minuti dopo la notizia dell'esonero di Gasperini collegarsi al sito ufficiale del Genoa, letteralmente preso d'assalto e intasato in tempi brevissimi dai commenti, soprattutto di sorpresa per la decisione del presidente Preziosi. La maggioranza dei tifosi genovani ringraziano Gasperini per quanto fatto in questi anni. È stato esonerato anche Giannini, allenatore del Verona. Stiamo parlando di Lega Pro, ma stiamo parlando di una società del calibro del Verona e di un personaggio come Giuseppe Giannini. Se parliamo invece di interventi chirurgici, vi dicevo all'inizio di Samuel, che sarà operato domani a Pavia. Domani stesso pomeriggio, ma ad Amsterdam, verrà operato il capitano della Fiorentina Montolivo per un intervento che deve sistemare un'infiammazione della capsula della caviglia destra, mentre mercoledì, l'indomani, ad Arezzo si opera al ginocchio Sebastian Frey, e cioè il portiere della Fiorentina stessa. Si parla sempre di per numero di infortuni, si parla sempre di Inter, di Juventus, di altre squadre, ma certo che la Fiorentina nel giro di un mese ha perso, no, forse anche due, ha perso tre giocatori chiave come Jovetic, come Montolivo e come Frey. Se non sono i tre meglio della squadra, certamente ci si va molto, ma molto vicino. Anzi, secondo me sono proprio i tre meglio della squadra, e quindi di questo va anche questo va tenuto presente. Che cosa avrà trovato Nicola Filippone per lunedì 8 novembre? Sembra ieri. Ho detto trovato, non registrato, perché per problemi di lavoro stamane Nicola non è riuscito a incidere questo Amarcord, che comunque mi ha cortesemente trasmesso ed è particolarmente gustoso. Allora, 8 novembre 70, il Milan di Rocco vince 3-0 un derby con gol di Biasiolo, Villa e Rivera. La sconfitta costa il posto al tecnico nerazzurro Eriberto Herrera, siamo l'8 novembre 70, ma il presidente Fraizzoli decide di affidare la squadra all'allenatore delle giovanili Gianni Invernizzi. Parte da lì, con il grande supporto decisivo dei senatori, dei Mazzola, dei Facchetti, dei Corso, dei Jair e soprattutto dei gol di Bobo Boninsegna. Parte da lì una tabella, una rimonta incredibile che porta l'Inter a vincere rimonta sul Milan, il suo scudetto numero 11. L'8 novembre del 98 mi segnala anche Nicola Filippone, cioè l'8 novembre di 12 anni fa, una data sventurata addirittura per due grandi giocatori di casa nostra, perché a Udine Del Piero riporta una lesione al crociato che lo terrà fuori per 9 mesi e comunque che poi ha finito per incidere su quel momento particolare della sua carriera. E lo stesso giorno, mese e anno, il portiere del West Ham franò su Pierluigi Casiraghi e lo costrinse a chiudere la carriera. Ha chiamato Emiliano da Genova, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Allora, sono un tifoso genovano e mi associo ai messaggi che hanno intasato il sito del Genoa per essere dispiaciuto dell'esonero di Giampiero Gasperini, uno forse dei migliori allenatori che il Genoa abbia avuto nella sua storia. Vedere giocare il calcio il Genoa di Gasperini, soprattutto i primi anni, è sempre stato, era un piacere andare allo stadio. La mia domanda è questa: ma secondo lei il nuovo allenatore che verrà, che gli auguro la stessa fortuna che ha avuto Gasperini, con gli infortuni come si comporterà? Perché non è che Gasperini, la sua colpa, sì, 2 anni che prendiamo abbastanza gol, la difesa, quello che si vuole, però voglio dire, nel gioco di Gasperini gli esterni sono importanti. Io ieri ho visto il Palermo, io sono abbonato, l'ho vista col Palermo, non è, penso, che sia colpa di Gasperini se nessuno va sul fondo a mettere una palla in mezzo per un Luca Toni che, a dir la verità, qualcuno dirà che è un aperticone, però mi sembra che meglio di Roma, di quando giocava a Roma. Non penso che se non sia Gasperini, penso che sia un problema di mancanza di uomini. Sì, io penso che sia un problema di assenze innanzitutto, e poi forse di feeling che si era un pochino logorato. Cosa vuole, in Italia 4 anni, dicevo prima che Gasperini guida il Genoa dal luglio del 2006, quindi siamo oltre i 4 anni, sono tante stagioni. Noi in Italia non siamo abituati a questi cicli così lunghi, quindi già sin dall'estate secondo me c'era stata la sensazione che il rapporto fosse un po' logorato. Io avevo avuto occasione di confrontarmi con Gasperini, di chiacchierare con Gasperini fuori da un ambito professionale nella scorsa estate, non questa, la precedente, e devo dire che dopo quel quarto posto ex aequo Gasperini sarebbe aspettato uno sforzetto in più da parte della società, perché poteva essere l'occasione, a parer suo, di di un salto di qualità, non dico definitivo, ma insomma stabile, un pochino più stabilizzato. Così non è andata, sono arrivati risultati indubbiamente negativi, e in quei casi insomma un presidente che in estate si è esposto personalmente sostenendo di aver comprato alcuni dei principali fenomeni calcistici del mondo, finisce come è finita. Sto vedendo i gol di Balotelli nel frattempo. Il primo è un gol in scivolata, in spaccata, abbastanza normale, avendo seguito bene l'azione. Dato che il secondo ne ha parlato come di una grande prodezza, grande no, ma una prodezza sicuro. Qualcuno prima mi ha scritto, avendolo già visto, che era un gol alla Gigi Riva. A parte che Riva era mancino, questo ha segnato col destro, andrei piano con le bestemmie, con i rischi di querela se non altro e cosa, però comunque un signor gol. Poi adesso ho visto il cartellino rosso e qui non è Gigi Riva, qui è proprio tutto Balotelli, cioè qui è lui, non ci sono possibilità di equivoci, perché prima salta sopra a quest'uomo che gli si para dinanzi, e poi visto che restano un pochino aggrovigliati, l'altro è a terra, lui ancora in piedi, cosa c'è di meglio che tirargli un bel calcione? Non c'è alternativa, no, evidentemente, e quindi vai Balotelli. Andrea da Verona, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Sono da Verona, sponda Chievo. Sì. Volevo parlare degli arbitri e dei calciatori che simulano, che si buttano in terra simulando botte in faccia quando vengono presi alle ginocchia, e dicevo, gli arbitri sbagliano, abbiamo visto il rigore che non hanno dato a Pellissier a Parma, è abbastanza evidente, ma gli arbitri possono sbagliare, i calciatori non possono sbagliare quando simulano un atterraggio da Boeing 747 in area come ha fatto Krasic, non ricordo se domenica scorsa o l'altra domenica, e soprattutto la società di calcio della Juve che va a dire no, ma non voleva, il ragazzo è un bravo ragazzo, allora o è stupido che cade senza volere oppure si butta in modo così plateale. La munizione secondo me è poco, perché è un gesto antisportivo, e io vorrei richiamare un po' questa cosa qua, che purtroppo ci sono troppi gesti di antisportività. Poi il gioco del calcio, io amo il gioco, guardo spesso la Premier League, e lì se ne danno di santa ragione, se ne danno anche troppe. Poi adesso è arrivato Balotelli, lì vedremo se riuscirà a migliorare i costumi della Premier League anche lui, ma che da noi si simuli troppo, su questo non c'è dubbio. Chiuderei con Massimo da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garantini. Dica. Buongiorno. Senta, mi allaccio a Balotelli e volevo parlare della crisi dell'Inter. Io sono interista ad hoc e vedo appunto un gioco che in questo momento manca. E quello che volevo dire io è semplicemente questo. Credo che è vero, siamo abituati bene dopo l'anno scorso che abbiamo vinto tutto, ma credo che sia da parte dei tifosi dell'Inter che da parte degli altri tifosi che già parlano male della nostra squadra, c'è bisogno di dar tempo a questo allenatore, perché Benitez è un professionista serio, è uno dei migliori allenatori al mondo, quindi dico agli interisti di avere pazienza, perché comunque un appello alla pazienza dei suoi compagni di fede, ma è giusto in effetti, soprattutto se con una squadra più o meno fortissima che ha vinto tutto, ma che insomma, un minimo di rinnovamento poteva averlo, e invece questo rinnovamento non c'è stato se non con le seconde linee. Grazie a tutti per i vostri interventi, grazie a Fabio Cantaloni in regia, Franco Piantanida in redazione, appuntamento a domani.